Riflessioni da Marte. Diciamolo, e naturalmente ve lo dico come sempre da quassù, da Marte, osservando la vostra sfera terraquea dal punto di vista che posso avere dal mio pianeta. Diciamolo, dicevo, questa è stata la settimana dei processi sommari. Sì, processi in cui poveri innocenti hanno rischiato di vedersi distrutti per sempre dopo vite impeccabili, irreprensibili, sono sfilati uno dopo l'altro sul banco degli imputati con un'intera opinione pubblica con l'indice puntato contro di loro, il pollice verso, sono sfilati, dicevo, davanti al pubblico ludibrio, impietosamente. Vogliamo ricordare dunque chi sono questi innocenti infangati? In questi giorni, per primo, è toccato al cetriolo, con quell'aria così innocua, così palesemente innocente nella sua rudimentale semplicità che nemmeno Jack lo Squartatore avrebbe mai potuto infierire contro di lui. Poi è stata la volta dei germogli di soia. Agiscono sempre in branco, avranno pensato, no? I loro strenui accusatori. Sono loro i colpevoli. E in effetti, avete mai visto un germoglio di soia agire solingo? Certo che no. Sono gregari per natura, sembravano i capri espiatori ideali, ma niente, scagionati anche loro. Poi, in una sequenza giustizialista senza precedenti, sfilano ancora il pomodoro, rosso di vergogna per un'inqualificabile umiliazione, e quindi la scapigliata lattuga, però prosciolti poi a loro volta. In seguito il ministro avverte: attenti al fieno greco, notoriamente presente sulla tavola di ogni ordinario consumatore, e dice altresì: guardatevi dalle zucche. E in effetti, diciamolo a ben vedere, nella festa di Halloween avete notato sempre le zucche con lo sguardo un po' sinistro. Ma poi si scopre che sono puliti anch'essi. E quindi verso chi indirizzare ignominiose accuse? Viene riacciuffato il branco dei germogli di soia. Ma come, non erano innocenti? Ma che, era solo una questione di termini, sarebbero in realtà germogli di fagioli, che in Italia vengono chiamati germogli di soia. A volte, sapete, le omonimie ambigue, no? Non sarebbe il primo processo questo. Insomma, meno male, diciamo che tutto è molto chiaro. E in attesa di una condanna definitiva, chi altro è stato giudicato con ingiustificata durezza questa settimana? Due pezzi di fusti in TV. Insomma, è mai possibile, dico, che i nudi femminili debbano essere utilizzati in televisione per promuovere qualsiasi cosa? Dallo yogurt ricco di fermenti per il duodeno sino al silicone sigillante per l'edilizia. È per una volta che ci sono due nudi maschili in TV, seppure rivitalizzati dal digitale per promuovere la Calabria, eppur con la faccia di bronzo dei due di Riace scoppia tutto questo scandalo. E che sarà mai? Insomma, sono volgarissimi, sono due bulli, così si mortifica l'arte, hanno tuonato taluni solo perché i due hanno guizzanti chiappe al vento e una microscopica nocciolina non ben identificata sul davanti. Tutto questo scandalo. Via, lasciate che anche le donne, e magari anche non solo loro, si rifacciano un po' gli occhi e possano sognare. Ma chi è quello lì? Con le cosce come due tinozze. Quello lì! Che sta passando vicino alle cozze. Io lo devo conoscere assolutamente. Vado lì, glielo dico e non ci penso più. Ma non sarà elegante, anche se soffende non mi porta niente. Pesante, lo sento.